Gapulandia 2.0. Rica, adorable Sixties. Sola per andare a vedere la partita di pallone. Ma quando dici che son bella, gondolando